Si narra che in quel tempo, nei dintorni di Canton, un valoroso membro della Guardia Rossa di nome Kung Situ venne disgraziatamente colpito da una poderosa scarica elettrica. Alcuni compagni soldati, alcuni appartenenti di una comune popolare, presero ciò che ne rimaneva e lo portarono nell'ambulatorio della sezione di sanità di un reparto dell'aeronautica militare dell'Armata di Liberazione Nazionale. Ivi il medico di servizio constatò che le sue pupille erano dilatate e, cosa ancora più importante, che il suo cuore aveva smesso di battere. Tuttavia il presidente Mao aveva detto: risanate i feriti, salvate i morenti e praticate l'umanesimo rivoluzionario. Il cervello del valoroso membro della Guardia Rossa non riceveva ossigeno ormai da 39 minuti, ma a dispetto della scienza borghese ed estendendo il precetto di Mao anche ai clinicamente morti, l'Assemblea Popolar Sanitaria decise di darsi da fare ugualmente. Gli praticarono dapprima un'iniezione di adrenalina e ottennero un primo risultato. Il cuore della Guardia Rossa riprese a battere. Purtroppo ne ottennero anche un secondo. I suoi arti presero a muoversi convulsamente. Stato di totale incoscienza, pressione sanguigna fluttuante, respiro anormale, qualche arresto cardiaco ogni tanto e il vorticare di gambe e braccia rappresentavano il nuovo quadro sintomatologico. Le cronache dell'epoca riferiscono che il gruppo locale del Partito Comunista si rivolse alle masse chiamate in aiuto per risolvere il problema, masse che fortunatamente avevano studiato approfonditamente il pensiero del presidente Mao, soprattutto laddove esprime l'idea che i giovani devono pensare, parlare e agire e non temere i grandi nomi e l'autorità. Che un cervello senza ossigeno possa resistere soltanto pochi minuti fu quindi considerata una convenzione borghese da sfatare. L'impegno politico fu tale che la sezione di sanità, forte dell'appoggio creativo del popolo, scoprì non meglio precisati nuovi ed efficaci metodi curativi, ai quali alcune robuste cinghie non dovevano essere del tutto estranee e che, nonostante l'insorgere di edema polmonare e di infezione cerebrale, ottenne ottimi risultati. 12 giorni dopo, la Guardia Rossa non aveva ancora ripresa conoscenza, ma qualcuno provò a mostrargli un ritratto e improvvisamente gli tornò percezione, categorizzazione e semantizzazione. Esclamò: lunga vita al presidente Mao, e da lì iniziò un breve periodo di serena convalescenza. Jacopo da Varagine, che morì nel luglio del 1298, nella sua Leggenda Aurea racconta cose come queste. Il Papa Felice, Papa di nome Felice, fece costruire a Roma una grande chiesa in onore dei santi Cosma e Damiano. Il guardiano di questa chiesa aveva una gamba tutta rosa da un terribile cancro. Ma ecco che una notte gli apparvero i due santi martiri con unguenti e un coltello in mano. Disse uno di loro: «Donde possiamo prendere una gamba sana da applicare al posto di questa putrida carne?» E anticipando chirurgia del trapianto e del regulation razzista ad OGD, rispose l'altro: nel cimitero di San Pietro in Vincoli oggi è stato sepolto un etiope, prendiamogli una gamba e mettiamola al nostro devoto. I santi andarono dunque nel cimitero, tagliarono la gamba al morto, la misero al posto della gamba malata e portarono questa nella tomba dell'etiope. Il guardiano subito dopo si svegliò e si toccò la gamba senza sentire alcun male. Per vedere meglio si avvicinò alla coscia una candela e con grande sua meraviglia si accorse di essere perfettamente guarito, onde balzò tutto felice da letto e corse a raccontare a tutti in che modo era stato risanato. Una gran folla si recò allora ad aprire la tomba dell'etiope e vide che una gamba gli era stata tagliata e che al suo posto, chissà come ne sarebbe stato contento l'etiope se avesse potuto vederla, al suo posto vi era la gamba malata del guardiano. C'era il coltello e c'erano gli unguenti. più o meno come ci saranno l'adrenalina e i nuovi ed efficaci metodi curativi. C'era una rivoluzione. Poi c'è stata la sua letteratura geografica che prima o poi finisce in stilizzazioni. Parabole, leggende, atti di apostoli, miracoli. Racconti che partono dall'esigenza di estendere la cerchia degli adepti e presto giungono a minare la base della loro fiducia. Amari destini di tante fatiche, spese in nome e per conto della salvezza di un'umanità cui sia sempre da insegnare qualcosa, nascondendogli sempre qualcos'altro. Per il 3 luglio del 1969, i sindacati confederali, nel disperato tentativo di controllare la crescente autonomia operaia e l'emergere delle rivendicazioni sociali, hanno la pessima idea di indire a Torino uno sciopero per la casa. Dalla manifestazione sorge una contromanifestazione che, trovandosi alle prese con la polizia da una parte e con fascisti organizzati dall'altra, trasformerà Corso Traiano e dintorni in un campo di guerriglia. Molte decine i feriti, centinaia i fermati, 29 arrestati, di cui 18 operai alla Fiat, poi licenziati. Per la Fabbrica Italiana Automobili Torino si prepara dunque un luglio torrido come anticipo di quello che sarà l'autunno caldo per antonomasia. Per una serie di fortunate coincidenze, nonché per la ferma pretesa di non dimenticare, conservo di quei giorni una raccolta dei volantini distribuiti per più intestati a lotta continua e a firma di operai e studenti, e perfino anche a firma di un raro operai, impiegati e studenti, volantini che erano stati distribuiti giorno dopo giorno fino al 31 luglio. Un'idea dell'analisi che sorreggeva lo scontro e le varie forme della sua espressione la può dare il volantino dell'11 luglio. La sua sintetica conclusione era questa: sindacalisti, burocrati del Partito Comunista Italiano, falsi marxisti-leninisti, poliziotti e fascisti, hanno tutti una caratteristica in comune. Hanno tutti una paura dannata della lotta operaia, della capacità operaia di mandare al diavolo padroni e servi dei padroni per decidere e organizzare autonomamente la lotta, in fabbrica e fuori dalla fabbrica. Noi diciamo queste cose perché alle porte, e intendono le porte di Mirafiori, alle porte c'eravamo prima della lotta, ci siamo stati, dentro come operai e fuori come studenti, durante la lotta, e ci saremo ancora dopo. Oggi le porte sono piene di questi signori. È un segno anche questo che li abbiamo spaventati. Oggi vengono tutti per speculare su una lotta che considerano morta. Ma il cadavere della lotta operaia è in realtà ben vivo e se ne accorgeranno. Diceva un tale che anche le balene hanno i loro pidocchi. La lotta di classe è una balena. Poliziotti, burocrati di partito e di sindacato, fascisti e falsi rivoluzionari sono i suoi pidocchi. A scanso di resuscitazioni ulteriori, il regime, unito nella difesa dei privilegi, ha presto alzato il tiro e il 12 dicembre ce ne siamo accorti tutti. Così le cose sono andate come volevano che andassero. Ancora grazie se ho salvato queste povere carte ormai ingiallite. La metafora della lotta di classe come balena è irrimediabilmente scaduta e beffardamente, con l'aggiunta melvilliana del colore, è passata questa metafora a designare quella democrazia cristiana, la balena bianca, no? Che tanta parte, con il concorso morale di tutti i suscitati, ha avuto nei massacri di quegli anni. Non sarà peraltro né il primo nell'ultimo caso di lotta per la vita vinta dai pidocchi. Per il momento.